Thank you. ben ritrovati e ben ritrovate a una finalmente nuova puntata della Fuga del Gatto. Quant'era? Sei mesi? Speravate che non... No, non è vero. Invece tutti ci rimpiangevano, sì. Dicevano ma dove sono? Ma dove sono? C'è sta cazzo di replica da circa sei secondo mesi. Secondo me, Mari, te sei più da bicchiere mezzo piano. Secondo me ci rimpiangeva. In realtà era tipo, sai, come i funerali, no? Che la gente tipo gli dispiace, poi il giorno dopo se ne scorda. Che bella persona che era. Bravi, sì, era una bella persona. Però, vabbè, è andata. Secondo me era un po' così, va bene. No, bene comunque, sì, per fiducia in noi stessi. Io sono molto, sì, ottimista. Sì, però sì, però effettivamente ci facciamo perdonare, non con la nostra brillantezza, perché almeno io ho un sonno che mi sto addormentando ai microfoni, però con una puntata ricca di cose, perché finalmente, appunto, dopo sei anni che abbiamo avuto di tutto, un sacco di scuse. Ora devo dire che ci sono successe un po' di cose, no? Tipo infortuni. Il cane ci ha mangiato il compito, i motori non ci partiva, le cavallette. Qualcuno salvi i bambini, insomma, ecco, così... No, però abbiamo finalmente la puntata, la seconda, della serie su Shakespeare. Esatto, questa serie che e non direi che sa. Poi finiamo, cioè. Beh, non è che ne facciamo altre scelte. Ora, non li voglio far mettere così comodi, comunque li vorrei lasciare un brivido, con proprio la suspense, no? Come fanno le serie, boh, sì, è finita la prima, chissà se fanno la seconda stagione. E quindi, vabbè, io non vi voglio, così, ecco, non vi voglio proprio... Illudere. farvi mettere comodi. Quindi vi dirò sì che questa è la seconda parte della, appunto, delle puntate dedicate alla musica ispirata da Shakespeare, dalle opere di Shakespeare. Però chissà se è l'ultima, vediamo, perché appunto come vi avevamo detto, per chi l'aveva sentita, per chi se lo ricorda, ci sono una quantità veramente sterminata di opere, di songs, di vari, insomma, forme musicali dedicate a Shakespeare, insomma, in generale tratte dalle opere shakespeariane, sia proprio come colonna musica, diciamo, non si dice per le opere teatrali, però insomma, delle opere teatrali, come accompagnamento proprio delle opere teatrali, sia come musica per balletti, che tratti da Shakespeare, e sia proprio come opere ispirate insomma, che la fantasia dei musicisti è stata ispirata da personaggi o da opere shakespeariane. Sì, l'altra volta avevamo parlato di Purcell, ci sarà messo anche Handel? Sì, c'era Purcell, c'era Handel, avevamo fatto diversi estratti, ma c'è tantissimissimi, veramente tante cose, alcune non si trovano perché magari sono un po' introvabili, sono un po' vecchie. Però in generale poi ci sono le musiche magari per i film, per i primi film, che ne so, ispirati a Shakespeare. Quindi in generale c'è veramente chiaramente essendo un argomento sterminato, poi anche nella musica, questo si riversa ovviamente nelle opere musicali, e c'è un... Non tutte ovviamente sono di grandissima qualità, qualcuna veramente sì, e di queste abbiamo tratto appunto degli esempi. Oggi vi volevamo presentare... ecco, per andare un po' più contemporaneo, insomma, ma non troppo, però per andare un po' più avanti invece di rimanere sempre veramente agli albori, vi volevamo presentare un'opera di Britten che è il Midsummer Night Dream, il sogno di una notte di mezz'estate. Avevamo fatto quella di Mendelssohn, che era giusto, una delle più famose. Io non mi ricordo niente perché sono passati tipo tre anni, quindi non mi ricordo nulla di quella puntata. Sì, ma vabbè, Mari. Sì, la memoria a breve termine di un pesce rosso. E io un po' me lo ricordo perché appunto avevamo presentato una versione del sogno di una notte di mezz'estate, che era quella di Mendelssohn, che è una delle più famose, delle più belle, da cui poi viene tratta anche la marcia di Mendelssohn, quella famosa che usano anche nei matrimoni, eccetera eccetera. Questa invece è una versione del 1960 di Benjamin Britten. Ora non sto a ripresentare Britten, magari ci faremo una puntata, perché ovviamente è stato uno dei più grandi compositori del Novecento, insomma, l'abbiamo trattato tantissime volte anche nella puntata per la musica per bambini, perché ha avuto particolarmente attenzione insomma, per il mondo dell'infanzia, usatissimo in tantissime anche colonne, musiche per film, in generale, insomma, un grandissimo compositore del Novecento. E lui appunto fece questa versione liberamente tratta appunto dall'omonimo lavoro di Shakespeare, ed è stata eseguita per la prima volta nel 60 al Festival di Aldeburg, diretta direttamente da Britten. L'opera è tipicamente, leggevo appunto, nello stile di Britten, con questo suono molto con questa insomma dà molta importanza alle parole, si sentono molto bene le parole del testo, sono molto scandite rispetto magari a quella quando pensiamo all'opera in generale, no? Che si perde un po' il parlato. Invece sì, con lui... tutti i maledetti vibratoni che esatto, io odio. Esatto, invece, essendo poi un po' più moderno appunto come concetto di opera, ripetute appunto in questa sottile armonia di suoni colorati che è tipica un po' di Britten, no? Per la prima volta, tra l'altro, qui il ruolo del protagonista non fu scritto per il compagno di Britten, Peter Pierce, che o era, non sono sicura, se ancora vivo, un tenore, ma per questo controtenore molto, molto famoso, molto dotato, insomma, questo Alfred Deller. Sì, Alfred Deller, tra l'altro, nella puntata dei controtenori la dovremmo fare, lo dovremmo infilare perché sì, è assolutamente uno dei più interessanti, infatti, oltre a uno dei più famosi, ovviamente. Esatto, infatti, lui scrisse apposta per Deller, scrisse apposta per le sue capacità, cioè proprio Britten. Anche perché era un po' il controtenore del momento, cioè era esatto, un po' la Callas, ora beh, insomma, sì, gli sarebbe piaciuto, però sì, vabbè, era un po' la Callas dei controtenori, quindi è chiaro che insomma. Esatto, Deller infatti interpreta il ruolo di Oberon, che è uno dei ruoli principali ovviamente, e fu scritto apposta per le sue caratteristiche vocali, e quindi proprio su misura per Deller, nonostante che la voce di Deller fosse bellissima, però non era molto, molto forte nelle note acute, e il risultato appunto che questa parte di Oberon quasi mai richiede un registro del controtenore per cantare sopra la, ora qui ne sai più di me, però sopra dell'alto, si dice in maniera, cioè che non va mai molto in alto, in maniera forte, continuativa, probabilmente perché lui non ce la fa, cioè non aveva quel tipo di voce. Sì, perché poi in realtà la tecnica dei controtenori si è modificata nel tempo, e anzi è una cosa piuttosto recente, perché il controtenore è un qualcosa che in realtà non è che esiste da sempre, né come classificazione né come tecnica. E sì, è vero che effettivamente poi sono state affinate negli anni i registri anche più acuti e le note più alte a livello di tecnica sono state affinate negli anni 60, ancora non c'era né la sensibilità né la capacità probabilmente per lavorarci su, e ad oggi probabilmente verrebbe interpretata in maniera molto diversa, ad esempio il nostro mito Jaruzelski o altri, certo, farebbero tanto diversamente. Tante volte uno non ce lo sì, metteva. Meno male che non siamo alla Barcaccia, perché ci prenderebbero a calci. Esatto, da qui a, sì. Quindi dicevamo appunto che Britten crea questa versione del sogno di notte di mezz'estate, e diciamo però nel suo stile comunque, insomma, la riadatta un po' al suo stile, e delinea tre gruppi di personaggi: gli artigiani, che si esprimono con musiche di tipo popolare, gli innamorati, no? Che sono i quattro protagonisti principali, sono gli innamorati, con una musica più romantica, e gli dei, no? Che sono appunto Oberon, Titania e tutte le due loro corti. Non so se ve lo ricordate, ora è impossibile rifarvi tutta la storia del sogno di notte e mezz'estate, no, però dai, c'è ma questa la situazione sanno, appunto di scambio in cui gli dei mettono le mani, eccetera. Vabbè, vado avanti, perché sennò qui non finiamo più. Però gli dei appunto sono delineati con questa musica che li avvolge in un'atmosfera era molto eterea, quindi ci sono tre proprio tipi di stili che lui affibbia a questi tre gruppi di personaggi. L'opera non, chiaramente non, cioè non è come, non ricalca proprio quella classica che uno vede al teatro, ovvio, no, essendo che è un po' semplificata, un po' cambiata. La riduzione. Sì, e contiene appunto molte innovazioni, come dicevamo, soprattutto il ruolo del protagonista, scritto apposta per questo controtenore, cioè ha proprio delle caratteristiche un po' nuove, come diceva anche la Mari, per l'epoca. E vabbè, insomma, segue un po' la storia originale di Shakespeare con alcune modifiche, e il primo atto addirittura lui lo taglia, lo sostituisce con altre scene, proprio lo cambia. L'inizio dell'azione appunto è affidato a questa scena del bosco e delle fate, e ed è sottolineato da questa apertura sostenuta degli archi e della voce di Oberon, che è appunto, leggevo, accompagnata da una splendida tessitura di arpa e celesta, e qui via, l'ho dovuto eccoci, dire perché insomma mi sembrava doveroso, il nostro strumento preferito. Allo stesso modo l'apparizione di Puck, no, è uno dei personaggi principali, insomma il servo di Oberon, è sottolineata da questo suono delle trombe, dei tamburi, un po' come se fosse tutte le volte annunciato dagli araldi. Quindi, insomma, ecco, c'è anche a un certo punto un coro delle ancelle di Titania, delle fate, che ha affidato a un coro di voci bianche. Spesso succedeva nelle opere di Britten che lui inserisse cori, appunto. Tra l'altro ci sono anche dei rimandi delle piccole citazioni di Purcell, appunto, come dicevamo, che è stato uno poi dei primi a trattare Shakespeare in musica. Quasi contemporaneo, diciamo. Esatto. Quindi all'inizio l'opera ricevette delle critiche non molto uniformi, non ebbe molto successo. Mentre invece oggi è considerata, insomma, uno dei massimi capolavori di Britten, e l'unica cosa che viene l'unico pezzo un po' stonato viene considerato la parte in cui gli artigiani mettono in piedi, no, la loro opera artigianale, che è da fare poi al matrimonio, che è Piramo e Tisbe, perché è un rimando all'operetta italiana, è una specie di, così, di presa in giro dell'opera italiana classica, e quella è un po', forse un po' cozza, insomma. I critici pensarono che stonava rispetto un po', però come sempre in Britten è un po' ironico, nel senso che questa cosa probabilmente era voluta proprio per farla contrastare invece con un'opera che aveva delle caratteristiche molto moderne, molto contemporanee, e un uso della musica appunto tipicamente britteniano, proprio, non lo so, ecco, Britten mi fa sempre, per fare un esempio figurativo, Britten ha sempre fatto pensare un po' a Miró, no? Ai pittori che si esprimevano magari con dei simboli, con delle tracce di colore. Ecco, la musica di Britten è un po' così, un po' evocativa in questo senso, un po' astratta. Così, vabbè, sto prendendo delle battute sulla Celesta. Ah, vabbè, sì, chiaro, no? Mi stavo censurando da sola. Poi c'è la sezione Celesta, dopo la oggi sono sì, no, oggi vabbè. Niente, e se la Mari sopravvive appunto alla sua demenza da postumi della serata precedente, sì. Forse abbiamo anche un ascolto. No, ne abbiamo due, veramente. Sì, intanto uno, vabbè. Vabbè, sì, ne abbiamo uno che comunque è sempre tratto da, certo, quello che si diceva poc'anzi. Bene. Meno male che non mette Verdi, perché oggi si poteva prestare dopo il pippone su Britten. E ora la Ida. No, Mari, ma va bene. Dai. Non è detto, magari quando parte ti accorgi. Mi distraggo un attimo. No, Benjamin Britten, A Midnight Night Dream. Sì. No, niente, non ce la posso fare. No, Midsummer Night Dream. Sì. Welcome Wanderer, I Know a Bank, il primo pezzo. A questo punto mettiamo solo il primo ascolto e poi reintroduciamo, sì, il secondo? Sì, tanto. Ma sì, c'è altro da dire, non è che è proprio un sacco di posizione. Vabbè, sentitevi il pezzo. Vabbè. Welcome Wanderer. Hast thou the flower there? Vabbè, sì, ci siamo resi conto. In effetti, questo pezzo stava un po' finendo. Stava sfumando. Ma Lobo è comunque era importante. Sempre, Lobo è sempre importante. Sottovalutato, ma fondamentale. E questo, appunto, era una parte da Sogno Notte di Mezz'estate. Abbiamo però un altro ascolto, che è invece la parte di Titania. Quindi è una delle parti del personaggio di Titania. E si chiama Come Now Around, cioè è un invito, dice vieni, ora tradotto sembra una roba, vieni nella rotonda, non è bello, sembra una roba per indicazioni stradali, vieni nella rotonda, no. È una cosa tipo da sì, cantiere della delle robe che non puoi tradurre dall'inglese, io lo faccio, però è brutto. E sarebbe appunto un invito alla danza. Ora io l'opera non l'ho mai vista, devo ammettere, per cui ora non so bene in che punto si ritrova, però sicuramente è una delle aree fondamentali di Titania ed è appunto questo invito alla danza, insomma, al raduno in questo momento. Mm-hmm. E, non so che versione abbiamo, perché quando abbiamo fatto la playlist sono passati poi 2 mesi e quindi non avevamo detto che glissavamo su questa. Però io non ce la faccio, devo essere onesta, vi devo dire, non sappiamo la versione. Esatto, abbiamo trovato una di quelle, delle migliori però che abbiamo trovato. Sicuramente. E ve la propiniamo così. E quindi Benjamin Britten, vai. Oh, Vabbè, chiunque la fosse, comunque se la cavava, direi. Sì, degli estratti comunque molto così briosi. Sì, oggi è andata così. A dicevo domenica appunto, pomeriggio. Dicevo appunto fuori microfono, sono riuscita a trovare l'unica cosa di Britten pallosa, cioè l'unica cosa che ha fatto in tutta la carriera. E vabbè, però era quella legata a Shakespeare e quindi faremo poi ci faremo perdonare dal fu Britten con una super puntatona su di lui. Ma sì. Sarà tutto molto divertente. Ma poi d'altra parte oggi piove da tantissimo. Comunque piove. C'è un clima grigio. A me mi gira le scatole, quindi ve la beccate così. Oh, infatti, ancora scelta. Che non c'è Mahler. Ecco, tra l'altro, è andata bene, appunto, che non ho fatto una puntata sui Requiem. Quindi consideratevi già fortunati, che oggi potevo andare anche così. Va bene, sì, la prossima che abbiamo in lista è, come vi dicevo, queste Three Songs from William Shakespeare di Stravinsky, di cui però ho trovato informazioni soltanto in inglese, quindi cercherò, così farò un po' questi deboli, un po' pindarici, ma arrampicherò un po' sulle specchi per cercare di, così, di tradurre quello che ho trovato e di spiegarvelo. E questi sono appunto tre songs, quindi in tre parti, la prima Music to Hear, la seconda Full Fathom Five e la terza When Daisies Pied. Noi abbiamo degli estratti dalla prima e dalla terza parte. Sì, abbiamo gli integrali, però la prima e la terza, perché okay, almeno... Sì, che erano tutte e tre. Sì, tre erano eccessive. Sono appunto per mezzo soprano, flauto, clarinetto e viola e sono del 1953. Diciamo che... lui aveva già composto, cioè Stravinsky aveva spesso composto delle opere, insomma delle produzioni musicali tratte da Shakespeare, anche se in maniera magari non proprio cioè lui non aveva mai fatto proprio appunto come Britten il Sogno notte e mezz'estate o aveva fatto un po' alla parcel, cioè aveva preso l'ispirazione, no? Aveva preso senza chiamarla direttamente con il nome dell'opera. E qui appunto fa questo. Nella prima Songs, Music to Hear, usa il testo del primo sonetto, scusate, dell'ottavo sonetto della raccolta dei sonetti di Shakespeare, che poi si chiama Full Fathom Five, appunto, cioè lui lo chiama così, lo trae proprio, le parole le prende dal sonetto. Nella seconda, che noi non ascoltiamo, lui trae ispirazione, insomma, trae il motivo dalla canzone di Ariel che c'è nella Tempesta. Perché spesso, tra l'altro, nelle opere shakespeariane ci sono proprio dei personaggi che hanno delle song, che hanno delle canzoni che appunto vengono poi riportate o non riportate a seconda delle versioni teatrali che vengono fatte. Però in origine ce l'avevano Ariel, il personaggio della Tempesta, che è lo spirito, appunto, ha per esempio una song nella sceneggiatura, c'ha proprio una song e lui la prende appunto. Nella terza parte, che si chiama When Daisy Spied, è presa dalla song di un altro personaggio, delle pene d'amor perdute. Tra l'altro, di questo Pene d'amor perdute, che non è una delle opere più famose di Shakespeare, no, infatti... Love, Labour, Lost, molto carina, Kenneth Branagh, che è un regista che ha fatto la carriera fondamentalmente costruita sulle opere shakespeariane, fece un trasse un film molto, molto carino, ne fece una versione musicale, ecco, quindi per esempio se vi interessa andare a cercarla, qualche anno fa, tutto un po' carino, ambientato un po' in anni 50, un po' con questo stile anni 50, appunto Le pene di amor perdute, che è una commedia molto semplice, una commedia degli scambi classica da shakespeariana, ecco. Poi appunto Stravinsky utilizza il linguaggio armonico di Shakespeare bilanciandolo con delle scelte tonali tipiche sue, particolari, insomma tipiche della sua produzione, quindi prende appunto una cosa molto classica come le parole di Shakespeare, tipicamente appunto nel famoso pentametro giambico, quindi c'ha tutta una serie di regole grammaticali e le applica però al suo stile, che è appunto particolare, molto riconoscibile, molto forte, molto moderno se si vuole per l'epoca comunque, e crea questa usando anche, insomma, fa un uso delle, dei toni maggiori, minori, delle, insomma, delle chiavi, di certi strumenti, insomma, utilizza appunto in maniera molto, molto singolare, molto, molto moderna, accostata però a questo tema molto classico. E in certi punti leggevo, appunto, cercavo di tradurre, credo, spero la traduzione sia giusta, asciuga molto proprio, fino ad arrivare a un punto proprio all'essenzialità, la musica, e quindi di nuovo la rende molto, gli fa fare da contrappunto a uno stile invece molto, molto ricco nelle parole. Quindi la prima, Music to Hear, giusto? Sì, sì. Entrambe sono nella versione interpretata da Katy Berberian, che secondo me era interessante doppiamente come ascolto. E quindi penso che più o meno non siano passati molti anni, ecco, perché se è del 53, Katy Berberian, insomma, la versione sua sarà stata di poco successiva. Io direi potremmo ascoltarle di seguito, prima Music to Hear e poi When Daisy Spies, sì. Spied, giusto? Sì, ti torna? When Daisy Spied, che sono tutte e due, appunto, come dicevi te, sì. Della stessa, appunto, dello stesso momento, la stessa produzione, probabilmente perché quando le rappresentano le fanno tutte e tre, ora io non l'ho mai sentite, però le faranno insieme, insomma. E When Daisy Spies, in particolare leggevo appunto che ha un uso della, cioè la linea dell'accompagnamento musicale, descrive questa serie di quattro note che si ripetono e applica una variazione appunto sulla ripetizione delle quattro note, quindi, cioè, la struttura è molto semplice e poi viene variata all'interno, questo per quanto riguarda la terza parte, When Daisy Spied. E quindi questo, sì, le possiamo ascoltare anche di fila, tanto credo che ci sia uno stacco comunque nel mezzo, quindi si capisce che sono separate. Quindi Music to Hear e When Daisy Spied. Sings this for thee. Oh, word of fear, unpleasing, unpleasing to a married ear. When shepherds pipe on wood and strolls, summer smocks, the cuckoo then on every tree mocks married men, for thus sings he cuckoo, cuckoo, cuckoo. Oh, word of fear, unpleasing, unpleasing to a married ear. Sì, no, vabbè. Va bene. Vi siete sparati? Che quello che arriva ora è tipo gli SDS in confronto, insomma, è così. E ora qualcosa di completamente diverso. E ora qualcosa di completamente diverso. Vabbè, sì, beh, insomma, parecchio diverso. E qui arriviamo proprio alla... se finora siamo stati sul veramente sull'intellettualismo peso, qui proprio, vabbè, niente, sbrachiamo, perché qui proprio la buttiamo in caciarissima, perché avevamo già fatto ascoltare una parte tratta da quest'opera che presentiamo nella prima puntata di Shakespeare, perché ovviamente è una delle più rappresentative, però la riproponiamo perché ci sembrava doveroso, visto che non avevamo parlato quasi per niente, perché si era messa in coda. Io lo so che Mari non ti ricordi niente, ma ti devi fidare, zero, di me, cioè, ti devi fidare di me, fidati di me. Poi la memoria storica di questo programma, e ti devi fidare di me. Sì. Quindi è il balletto di Prokofiev tratto da Romeo e Giulietta, quindi musica per balletto di Prokofiev, molto molto bella, famosissima, non magari in tutta la sua interezza, però ci sono delle parti che uno le sente e dice: ah, ma questo era qui, cioè veramente riusate in mille abusate, sì, direi, veramente, soprattutto quella che avevamo fatto sentire l'altra volta, la danza dei cavalieri, quella è una delle più veramente famose, usata veramente in qualunque film, in qualunque pubblicità. Questo è un balletto un po' come spesso succede per i balletti, un po' come per lo Schiaccianoce o per altri balletti più famosi. La Bella Addormentata, uno ha sentito mille volte il tema o quella parte, magari non sa che è di quel balletto, però è talmente famosa poi che è appunto. E, sì, il Romeo e Giulietta di Prokofiev è un balletto in 4 atti e 10 quadri. Composto nel 1935, poco tempo dopo il ritorno del compositore in Unione Sovietica. Immagino un ritorno volontarissimo. Sì, sì. Proprio colui proprio, sì, sì, sì. Avvenuto nel 1933. È basato sul lavoro omonimo, appunto, di Shakespeare, riadattato però, diciamo, risceneggiato, riadattato per il balletto, tali Radulov, Piotrowski, Lavrovsky e dallo stesso Prokofiev. Sì, lo so, sembra una fava, una favola. No, io non ho detto niente, sì, sì, però... Lo so, ecco. Si trattenga, per favore. Già qui è difficile oggi. Come questa nostra puntata, questa nostra giornata, anche la composizione del balletto fu difficile. e qui vorrei fare una citazione, perché l'opera fu commissionata nel 1934 dal Mariinsky Ballet del Kirov di Leningrado. Ma quando Prokofiev propose il tema di Romeo e Giulietta, glielo rifiutarono, perché ovviamente insomma, era un pochino troppo, era, così, era un po' occidentale, come occidentale, come, poi sì, era, sì. Non era abbastanza Soviet, no. Prokofiev allora, sciocco, firmò un contratto con il Bolshoi, quindi con l'altro balletto, insomma, l'altro balletto più importante, per la rappresentazione del balletto. Ma anche col Bolshoi le cose finirono male, cioè non era partita proprio bene per il popolo. Ma no, ma poi dai, non aveva niente di razionalista, non era... capito, non era un'opera così che esaltava la rivoluzione, cioè comunque erano due che alla fine, insomma, era piuttosto decadente, come cioè, non è che i russi proprio si accollavano e uno si ammazzava borghese, per amore. Borghese, cioè, direi. Borghesona, sì. Mm. Una volta terminata la partitura, nel 35 i ballerini addirittura dichiararono che il balletto era era assolutamente non ballabile. Cioè proprio dissero, oddio, cioè, questi russi erano un po' esigenti e loro non gli piaceva. E diceva che era troppo complesso, cioè la complessità ritmica e i passaggi musicali erano troppo raffinati. E non permettevano la coreografia, cioè non permettevano, era troppo difficile da ballare, probabilmente perché lui l'aveva concepita, sì, ok, aveva accettato di fare un balletto, però probabilmente la concezione sua era più sinfonica, appunto, era venuta un'opera troppo... Non erano buoni. Vabbè. Quindi rischiando la Siberia, probabilmente... La versione originale, appunto, tra l'altro, prevedeva un lieto fine, cioè che Romeo arrivasse in tempo per evitare la catastrofe. Però questo non fu mai. Vabbè, però loro hanno fatto bene a rifiutare. No, lui disse: vabbè, mi sa che lui proprio disse: no, questo non c'è proprio il lieto fine, no. Mi sa che lo voleva, credo. Sì. No, perché sennò veramente. Quindi si rimise al lavoro e alla nuova partitura nel 36 ed estrasse due suite per musica sinfonica in sette movimenti, eseguite poi tra l'altro per molti anni sia a Mosca sia negli Stati Uniti, e una trascrizione per pianoforte. Va bene, insomma, poi ci furono altre riduzioni, altre cose tratte. Queste riduzioni e queste suite sono appunto... ci fanno un po' pensare, danno adito alla teoria che questa musica fosse pensata in realtà come fine a se stessa, cioè indipendente da un linguaggio del balletto, e quello che poi gli avevano criticato fin dall'inizio, no? Quindi qui c'è un po' la prova. Insomma, il balletto fu finalmente messo in scena il 30 dicembre del 38 al Mahen Theater di Brno, nella Repubblica Ceca, quindi per esempio debutta in provincia, così se va male vediamo come va, e dove in realtà fu ben accolto, e a questa rappresentazione seguì poi una nuova versione rivista e rimaneggiata dallo stesso autore. Nel gennaio del 40 al Kirov di Leningrado, con la coreografia di Lavrovsky e con la famosa Galina Ulanova, che vi può non dire molto, ma è stata una delle più famose ballerine, cioè, lo so io, della storia, annuisce la Mari, no, cioè, voglio dire. Poi non vi so dire più di questo. Vabbè, però. No. E al Bolshoi nel 46. Quindi da questo momento il balletto di Romeo e Giulietta fece il giro del mondo e diventò un po' come per altri... I balletti hanno un po' sempre sta genesi, anche lo Schiaccianoci ci aveva avuto, tutti i balletti un po', perché probabilmente hanno bisogno di vari passaggi per assestarsi e per diventare poi appunto la versione ufficiale. Una versione fu realizzata per il balletto dell'Opera di Parigi nell'84, dopo il quale il balletto dell'Opera, dalla quale appunto il balletto dell'Opera ha continuato poi a fare sempre questa versione, a rappresentare sempre questa versione. Io devo dire, per una volta mi è riuscito di vederlo qui a Firenze, in una bellissima versione del balletto di Toscana, perché da piccolina ovviamente facevo danza, andavo lì, quindi mi toccava poi andare a vedere quello che faceva il balletto di Toscana, in questa versione di un bravissimo coreografo, Mauro Bigonzetti. E beh, insomma, ecco, io ho visto questa, penso sia la versione poi, insomma, che viene usata contemporanea adesso. Molto bella. Romeo e Giulietta è una delle opere appunto più apprezzate, in realtà alla fine è diventata una delle opere più, come sempre succede, delle più famose di Prokofiev, grazie appunto a questa grande varietà ritmica, a questa caratterizzazione dei temi principali, e alcune parti sono addirittura diventate ipercelebri, come la danza dei cavalieri e il tema ampio è molto delicato dedicato a Giulietta. Secondo me, ma se non so, azzardo, ma se facciamo ascoltare un primo brano e poi parliamo della strumentazione, esatto, delle varie cose. Abbiamo subito. Allora, abbiamo Montecchi e Capuleti, esatto. Giusto per introdurre la questione. Esatto. Quindi, in realtà, suite numero 2, dicevamo, opera 64 C. Beh, non so bene perché la classificazione, vabbè, in questo caso dice sì, ma vabbè. Comunque, Montecchi e Capuleti. Ci ascoltiamo e poi dopo continuiamo a narrare di quest'opera. Dai. Opera, che non è un'opera, ma vabbè. Balletto, ciao. Ecco. Eh sì, che bellezza. Questa è una delle più, in realtà, se si era sentita anche l'altra volta questa parte, però è una delle più, veramente delle più famose, insomma, e descrive proprio questa atmosfera, no, tesa, esistente tra queste due famiglie rivali, no, proprio questo contrasto forte, però molto elegante, no, come se fosse proprio, infatti si chiama la danza dei cavalieri, come se la, no, fosse riuscito a passare dalla forza fisica bruta, dallo scontro violento, riuscendo però a ribaltarlo in una danza elegante, raffinatissima. Ma infatti è bello come effettivamente le musiche, si diceva ora fuori dai microfoni, appunto della tua fascinazione per le musiche per balletto. Sì. In effetti è interessante come riescano queste musiche a dipingere delle immagini molto più che altri tipi di composizioni, per, sì, ovvie ragioni, sì, certo, volutamente. Chiaramente devono sostenere il movimento, no? E quindi chiaramente, però quasi sempre, se sono di opere di valore, grandi autori, riescono quasi sempre a sublimare le emozioni e riuscire, riescono, anche se uno non lo vede il balletto, ascolta anche lo Schiaccianoci, anche se non lo vedi, però senti. Ti immagini. Cioè, ha uno spirito un po' più lezioso, ovviamente, di questa, però in generale anche quadri di un'esposizione o in generale, ecco, i balletti, anche se non li vedi, anche se non L'uccello di fuoco di Stravinsky, per dire una cosa un po' più moderna, però anche se proprio non stai vedendo il ballo, non lo stai vedendo ballato, stai sentendo solo la musica, proprio hanno la capacità di rendere proprio delle immagini fortissime. Io sono sempre stata molto, cioè mi piacciono molto, insomma, mi sono sempre piaciuti molto. Tra le mie composizioni preferite, molte sono musiche per balletto. Qui, appunto, Prokofiev riesce a fare un lavoro incredibile, nonostante la gestazione, come abbiamo detto, molto travagliata, perché riesce a dispiegare proprio un po' a piene mani quelli che erano i suoi punti forti, no? Le sue caratteristiche, che venivano un po' ereditate. Qui c'è molto di Tchaikovsky, c'è tanto di, cioè lui riesce a ereditare proprio la tradizione del sinfonismo russo, però rimanendo anche, dandogli una forza. È molto tagliente, spesso no, è contrastato, è proprio, si impone all'ascolto e prorompe proprio, è molto vitale, no? Non mancano chiaramente i momenti più dolci, no? Poi è legato anche ai personaggi che rappresenta, chiaramente, no? Però è una tragedia rinascimentale e i sentimenti sono estremi, e lui riesce proprio a, cioè, rispettando le necessità del balletto, però riesce a trasmettere questo senso proprio di tragedia estrema, di sentimenti, di tante sfaccettature che l'opera shakespeariana ha, perché è poi la parte più interessante, no? Mm-hmm, è vero. E ha questo sinfonismo estremamente brillante, che appunto eredita la tradizione di Tchaikovsky e di Stravinsky, e che poi giustifica un po' la fortuna che questo balletto ha avuto e finora, tuttora, in Europa. E insomma, ecco, avevamo detto appunto Capuleti e Montecchi, ma in generale ci sono tantissimi passaggi come quello che ascolteremo. Abbiamo un altro ascolto, mi sembra che sia, cosa abbiamo, Giulietta? Il prossimo sì, è Giulietta da ragazza, diciamo. Esatto, Giulietta as a young girl. Esatto, che è uno dei momenti un po' più poetici, più delicati del balletto, dove Prokofiev riesce appunto a dispiegare un po' questo lirismo strumentale nel ritratto di questa eroina, però nella sua, appunto, nella sua gioventù, quindi nella sua intimità, nella sua gioventù, e riesce a darne un ritratto che non è per forza legato al maschile, alla sua controparte maschile, che è Romeo, ma riesce a dare una visione a tutto tondo, autonoma anche, del personaggio femminile, sì, riprendendolo, facendo un po' un salto indietro nel tempo e facendola vedere ancora più giovane di quello che già è nell'opera, della fanciulla, appunto. Sì, perché in effetti è vero che Romeo e Giulietta hanno un po' senso solo se insieme, almeno come è stato tramandato. In realtà Giulietta, appunto, sia Romeo e Giulietta, se uno legge, insomma, nell'originale di Shakespeare, hanno tantissime parti, cioè in realtà le parti insieme sono meno di quelle che hanno divise, separati, e anche se ovviamente is a man world, quindi le parti di Giulietta sono comunque meno di quelle di Romeo, però è uno dei primi personaggi femminili veramente complessi e completi della storia della letteratura, anche per questo è sempre stato così interessante, non tanto perché la storia d'amore, se poi lascia fare quello che poi il romanticismo ha tritato e risputato, ma insomma qui si parla di un personaggio, uno dei primi personaggi femminili veramente complessi, cioè lei era molto giovane, però è insomma è super... insomma ha questi dialoghi molto forti, esprime una super erudita, comunque fa delle citazioni, cioè, è una bimbetta innamorata, cioè Giulietta è un personaggione fondamentalmente, anche se non ha poi lo spazio che è dedicato a Romeo, ma insomma è un personaggio molto, molto volitivo, molto forte e veramente raro per l'epoca, non a caso poi Shakespeare, insomma, la grandezza di Shakespeare è anche in questo, insomma. Sì. Ecco, qui dice appunto, leggevo che la strumentazione usata da Prokofiev prevede un'orchestra standard, alla quale egli aggiunse un sassofono tenore, usato nella parte sia solista che insieme, e una cornetta, una viola d'amore e due mandolini per dare un sapore un po' italiano, diciamo, alla musica. L'elenco dell'orchestrazione, vabbè, comprende i legni, gli ottoni, percussioni, e un'arpa anche, pianoforte, celesta ovviamente, organo e violini. Quindi oltre alla composizione tradizionale della ecco, così standard dell'orchestra, lui aggiunge appunto altri strumenti caratteristici. Sì, ma tra l'altro anche all'interno delle percussioni, e si sentiva già qui nel sì. Danza dei Monte Checca Puleti, percussioni non banali, non solo timpani, ma tamburi, xilofoni, triangolo, woodblock, che non so bene cosa sia, ma mi ispira molto bene. Lignetti. E glockenspiel, insomma tante cose, campane tubolari, quindi evidentemente il tamburello basco, che chissà cos'è, non so. Quindi insomma una sezione ritmica importante, come poi ci si aspetta effettivamente da un balletto, e però insomma qui è resa benissimo. Beh sì, poi Prokofiev poi appunto è un po' quello che traghetta poi, no? È un po' una figura di passaggio anche verso un suono più, vogliamo dire, contemporaneo, no? È un po' esagerato, però cioè, è un po' un traghetto, cioè, rispetto magari a Tchaikovsky, già è un traghetto verso la cioè, lui traghetta un po' tutta la tradizione dell'opera russa verso un po' la modernità, inserisce infatti delle cose che sono già un po' più particolari, no? Certo. Cioè, si parla comunque, siamo già a metà degli anni 30, quindi per la musica classica siamo piuttosto avanti, e si sta già andando e si sente, e in particolare i russi poi hanno avuto sempre questa sensibilità, anche grazie poi all'approccio ad altri mezzi di espressione come il cinema, no? Prokofiev lavora, poi questa è un'altra grossa parentesi, magari un giorno converrebbe approfondire, però i grandi compositori russi hanno poi lavorato con i grandi nomi del cinema russo, quindi chiaramente c'è già un ponte verso altri mezzi di espressione che gli permette poi di avanzare anche in termini di evoluzione musicale. Quindi certo è un balletto, è ispirato a un tema molto classico, però porta già in sé insomma diversi germi di modernità, di contemporaneità. Sì, proseguiamo nell'ascolto. Sì. Noi abbiamo appunto introdotto Giulietta as a Young Girl, quindi a questo punto andiamocela ad ascoltare. La durata è molto breve, 3 minuti e 51 circa. Thank you. Ecco qua. Sì. Ci manca poco, ci mancano due brani soltanto. Sì, cioè veramente, cioè, insomma, potete vedere la luce in fondo al tunnel, recuperare le speranze, perché è anche la Mari, forse oggi posso riuscire a trascinarla fuori, cioè, la sedia con le ruote, quindi forse posso riuscire a trascinarla fuori dalla stanza. E, va bene, quindi prima che la Mari mi si addormenti sul mixer vi presento il pezzo successivo che è, mi dicono dalla regia, Romeo sulla tomba di Giulietta, e qui appunto l'orchestra appunto è molto, viene descritta come molto solida, no? E c'è questa esplosione di drammaticità ovviamente perché è il momento culminante in cui lui appunto è sulla tomba di Giulietta. E che c'ha proprio un colore da opera quasi verdiana, cioè proprio un'opera da opera lirica quasi, e raggiunge appunto un taglio espressivo straordinariamente ricco di movimento e di slancio, anche per dare modo al ballerino in questo caso di esprimersi probabilmente al meglio, un po' diciamo nella tradizione dell'ardore tipicamente di Prokofiev, cioè legato proprio a questa sua vena molto appunto molto passionale, molto forte che Prokofiev aveva nel suo processo creativo e che esprimeva appunto con questi, che qui esprime proprio in maniera esemplare, in maniera molto forte, un po' perché è un momento clou del balletto, della storia, e un po' perché proprio gli permette di dare sfogo proprio, ecco, vai, allè, è così. Comprensibile che ai sovietici non piacesse tantissimo. È chiaro, perché comunque, insomma, non è che mi aiutava la rivoluzione se un frocio con la calzamaglia ballava sulla tomba, sì. Capisci? Era un con po' ardore. Capisci, ecco. No. Come pensavano loro, sto citando, ovviamente non è il mio pensiero, il mio è tutt'altro. E, bene, quindi il Romeo sulla tomba di Giulietto, e a seguire in finale, vi salutiamo, prima così lo lasciamo in finale, il funerale di Giulietta. Sì, così per chiudere in allegria. Così, perché oggi è andata così, non è che sì. Si poteva chiudere con sì. Così con la sì. Festa in piazza. Cioè, no. Comunque il funerale di Giulietta. Anche perché si sa come va a finire. Comunque il periodo dei funerali è questo qui, quindi adesso non è che ci possiamo staccare troppo, no, di quelli avvenuti, nel senso. Ah, no, infatti no. Che devono avvenire. Stavo facendo dei gesti signora, no, ci mancherebbe. Mi sembra che insomma sia già così messa già bene di suo, e non le auguro niente di male, anzi, però finisce appunto, lasciamo il pezzo finale del funerale di Giulietta in uscita, e vi salutiamo adesso, direi. Sì. E vi diamo appuntamento ovviamente a domenica, ovviamente, insomma, visto ovviamente, il ritmo delle sì, ultime ora, settimane, un po' no. Una pretesa un po' così, vabbè, però diciamo ora se riprendiamo il via ce la possiamo fare. No, noi ce la faremo, dai. Noi ce la faremo. Quindi vi diamo appuntamento a domenica prossima, sempre intorno sì. Alle 18, e prima di lasciarvi vi rinfresco i Social Wombat, perché non l'abbiamo ancora fatto, il sito da cui probabilmente ci state ascoltando, wombat.noblogs.org, e la casella di posta wombat @insiberia.com. .net, e la nuovissimissima frequenza appena lanciata 13.59 in onde medie AM 15, per chi ci ascolta dalle radioline vintage, se siete raggiunti dalle nostre frequenze. Quindi a domenica prossima e a presto. Un saluto a tutti, ciao ciao. Ciao ciao.